andiamo a scoprire, è brutto dire così per una vicenda che risale a tanti anni fa, però l'abbiamo scoperta e la scoprirete anche voi, perché se ne è parlato veramente poco attraverso i media nazionali. Una storia di pedofilia che arriva da un istituto che si trova nel nostro paese. Ho scelto Manà. Prima pagina. Ho scelto Manà. Masturbazioni, sodomizzazioni, rapporti orali forzosi. Tra le mura dell'istituto religioso per bambini e bambini sordomuti Antonio Provolo di Verona, dagli anni 50 fino al 1984, si è consumata una agghiacciante vicenda criminale ai danni di circa 40 giovani ospiti, di cui ancora oggi troppo poco si parla. Chiesa e pedofilia, edito dall'Asino d'Oro, Federico Tulli, giornalista, autore appunto nel 2010 di questo saggio. Ben trovato Tulli, buongiorno. Buongiorno a Federico Tulli. Tulli, questa storia dell'Istituto Antonio Provolo di Verona, come è già stato già scritto, non è uno scoop, perché in realtà la notizia è stata tirata fuori da tanto tempo, però che cosa è accaduto? Sì, la notizia è stata tirata fuori appunto. Tulli, le prego di alzare un po' la voce, altrimenti vanifichiamo il collegamento. Grazie. Ecco, la notizia vera e propria risale al 2009, quando l'Espresso uscì con un'inchiesta e raccontò appunto per grandi linee quello che è accaduto in questo istituto, che è un istituto cattolico per bambini e bambine sordomuti che si trova a Verona. In pratica, come hanno raccontato le vittime in diverse occasioni, tra gli anni 50 e la metà degli anni 80, circa 40 giovani frequentatori dell'istituto sono stati violentati e abusati sia da alcuni dei sacerdoti che insegnavano nell'istituto che da fratelli laici. Mi scusi Tulli, questo è un dato accertato? Sì, perché appunto dopo la denuncia dell'Espresso e altri articoli che mi sono entrato a scrivere anch'io su un altro settimanale, il settimanale Left, anche aiutati dalle notizie che arrivavano da gran parte dell'Europa, che si era nel 2010 quando cominciarono a uscire alla luce gli scandali in Inghilterra, in Germania e così via. Le presunte vittime, chiamiamole così all'epoca, riuscirono ad ottenere dal Vescovo di Verona l'istituzione di una commissione indipendente che indagasse che accertasse appunto quanto loro andavano dichiarando. E questo è stato accertato appunto da questa commissione, che era presieduta da un ex magistrato di Verona, il giudice Sannite. Sì. Che appunto in una trasmissione lo scorso anno a Matrix su Canale 5 ha sintetizzato quelli che erano stati i risultati dell'inchiesta in suo possesso. Ecco. Certo. E appunto il giudice Sannita disse proprio almeno tre tra sacerdoti e fratelli laici hanno ammesso gli abusi. Ecco, questa quindi dell'Istituto Provolo è, diciamo così, un tassello di uno scandalo complessivo che venne proprio alla luce nel 2010 e che riguardava vari istituti religiosi europei, no? Sì, sì. Ho capito. Quindi rientra in un quadro complessivo. Lei ha fatto un certo tipo di lavoro, Tulli, ha ricercato le testimonianze, le ha anche ottenute? Esatto, sì, appunto in questi anni, il mio libro è uscito nel 2010, è circolato ovviamente soprattutto negli ambienti tra le associazioni che si occupano di seguire le vittime, e molte di loro in privato mi hanno scritto, poi comunque anche aiutati dalla storia messa portata alla luce dall'Espresso, hanno cominciato a prendere coraggio e a denunciare pubblicamente. Tutto quello che voi avete letto all'inizio, quel virgolettato, diciamo così, sì. Masturbazioni, sodomizzazioni, rapporti orali forzosi, è l'incipit di una lettera che l'associazione delle vittime dell'Istituto Provolo ha spedito, mi sembra a metà dello scorso anno, a diversi destinatari, a partire dal Papa Benedetto XVI, poi il Cardinal Bagnasco, il Cardinal Bertone e così via, per chiedere che fossero sconsacrati i luoghi in cui erano avvenuti gli abusi. quindi loro, diciamo, ecco, attaccano la lettera in questa maniera piuttosto forte proprio per certo, certo, e immaginiamo che a questa lettera non sia stato dato né seguito né risposta. No. Ecco Tullio, insomma, a fronte di tutta questa attenzione mediatica che c'è stato negli ultimi anni, insomma, e anche naturalmente la volontà, comunque, se non altra parola, del Vaticano di fare chiarezza, qual è la situazione oggi? Insomma, lei ha scritto il libro nel 2010, Chiesa e pedofilia. Dopo due anni che cosa è cambiato? Dopo due anni, limitiamoci all'Italia, perché all'estero è cambiato molto. Un esempio velocissimo, in Irlanda, dove insomma la popolazione cattolica è piuttosto forte, possiamo dire, anche come in Italia, ecco. In Irlanda, diciamo, è cambiato molto, e sono state istituite diverse commissioni da parte del governo che ha portato alla luce molti scandali e lì, ecco, diciamo, si è mosso parecchio. Qui in Italia invece la situazione è completamente differente. Mi riferisco alla Conferenza Episcopale Italiana che negli ultimi, dunque a giugno, ha varato le linee guida per diciamo istruire le varie diocesi su come affrontare i casi di pedofilia ecclesiastica. E una cosa appunto di cui si è parlato molto, per cui non è che lo dico solamente io, in queste linee guida manca una cosa fondamentale, cioè l'obbligo di denuncia da parte dei vescovi che vengono a conoscenza di presunti atti di pedofilia all'interno della loro diocesi. Obbligo di denuncia ovviamente alla magistratura italiana. Senta, questo obbligo non c'è e quindi insomma capiamo bene che tutto rende molto più difficile e complesso diciamo arrivare poi all'accertamento della verità e dei colpevoli di questi crimini allucinanti, insomma si potrebbero sprecare tanti aggettivi. Mi dica. Per accertamento della verità ovviamente si intende anche andare a verificare che magari non è successo nulla. Senta, un'ultima domanda, mi scusi, Tulli. Al di là dell'espresso, lei mi conferma che c'è stato, diciamo, uno strano, tra virgolette, silenzio mediatico su questa storia? Ma sì, perché assolutamente sì, cioè la gravità di quello che è accaduto, che appunto è stato accertato, c'è questa commissione che comunque è un fatto unico in Italia, la diocesi di Verona è la prima e unica diocesi che ha accettato di comunque andare a verificare se le denunce delle presunte vittime corrispondevano al vero, quindi questo è senza dubbio positivo. Il problema qual è? Che i risultati di questa commissione, a parte quello che disse Sannino in televisione, nemmeno le vittime, cioè le persone che hanno testimoniato, li conoscono. E la commissione d'inchiesta si è avviata di lavorare a metà dell'anno scorso. Quindi questi risultati sono nelle mani del Vaticano, cioè sono appunto presso l'ufficio che comunque si è incaricato di organizzare l'inchiesta, sì. Però appunto i risultati sono rimasti segreti. È chiaro, era quello che hanno confessato gli abusi, certo. Nessuno conosce i loro nomi, per dire. Federico Tulli, io la ringrazio soprattutto per il lavoro che ha svolto su questa vicenda e che continuerà a svolgere, oltre che per l'intervento in diretta, perché siamo riusciti così a raccontare questa storia che veramente in pochi conoscono, la storia degli abusi su bambini sordomuti all'Istituto Antonio Provolo di Verona. Buona giornata Federico Tulli, e grazie, se volete saperne di più, Chiesa e pedofilia, edito da Asino d'Oro. Linea alla regia.